musica in moto ondoso, mi sveglio, riposo, cullato da carezze, minute splendidi, occhi socchiuse, le labbra dal suono di sospiri e un volo, un senso vattato, un silenzio di bisogno. Senso sospeso. È un pensiero, un ricordo, non so, caricato dei migliori intenti. Stringimi più che puoi, lasciamoci trasportare, non aver paura. Abbracciamoci il vento, guarda che bello da quassù, tutto riprende forma, quella sembri tu. Adesso che senso ha?